bentornate e bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. E oggi abbiamo come colonna sonora un remix, i best of di Fela Kuti. Ci siamo evoluti in senso intellettuale, non la disco music di merda che metto di solito, ma bensì una roba anni 70, sì. Esatto, sì. Abbiamo scelto un approccio. Bene, sì. Abbiamo voluto trattarvi bene come prima puntata del nuovo anno. Auguri. Che così è tipicamente l'anno del revival degli anni 70, Vabbè, quindi ci accompagnerà per tutto l'anno. Ascolterete sempre questo stesso remix di Fela Kuti, mettiamo sempre questo ogni puntata per annoiarvi a morte, così non vi accorgete neanche quando cambia la puntata, a meno se ci si dimentica, tanto nessuno nota. Vabbè, comunque abbiamo fatto queste premesse per chiarire questo anno, inizierei con... Sì, ora iniziamo con la puntata. Basta, erano delle premesse così per chiacchierare e non iniziare subito a bomba. Oggi abbiamo svariati argomenti, tipo ad esempio anche tre. Il primo è sostanzialmente un approfondimento che ho fatto questa settimana su una roba di cui non ho mai parlato, ma di cui mi ero sempre avevo già pensato di discuterne, ed è questa cosa buffa che è il bug bounty. Cioè, il bug bounty è sostanzialmente teoricamente l'attività è molto semplice, praticamente lavori come debugger ultra specializzato, nel senso che tu prendi dei programmi, controlli, e di solito il bug bounty è come viene inteso quello che almeno nel senso comune del termine, quello che si occupa essenzialmente di quei bug relativi alla sicurezza. Quindi non è che cerchi dei bug proprio a caso, cerchi dei bug che in qualche modo siano relativi a. Ci sono piattaforme di bug bounty nelle quali sostanzialmente tu hai una specie di licenza per testare dal punto di vista della sicurezza, quindi da un punto di vista poi tecnico, per attaccare delle piattaforme che si sono registrate di aziende più o meno grandi, più o meno famose, più o meno ricche. Con questa licenza te sei tenuto, se trovi un bug, a riportarlo all'azienda. L'azienda ti conferisce di solito una specie di gettone in denaro a seconda sostanzialmente di quanto lei ritiene opportuno darti. Sì, è abbastanza arbitrario, non ci sono vere e proprie tariffe. Mi sembra che in alcuni programmi di bug bounty proprio te non puoi chiedere direttamente denaro, cioè puoi solo segnalare all'azienda sperando che lei ti, anche per non fare, di solito i forum di bug bounty sono spesso pubblici. O comunque dopo un po' vengono pubblicati questi bug, quindi di solito l'azienda, per non fare una figuraccia, tendenzialmente qualcosa ti dà, però non c'è un vero e proprio stipendio, a meno che forse non sei a livelli molto elevati. E quello che aveva interessato a me questa settimana è che leggendo le solite testate del cavolo dalle quali mi documento sul mondo dell'IT security, ho visto che ci sono ben due progetti che sono nati adesso, di due aziende molto grosse, con due differenti approcci a questa cosa. Uno è quello della Apple, che ha aperto ufficialmente, dopo mesi che lo annunciava, un proprio programma di bug bounty. Sostanzialmente è un programma di bug bounty ad inviti. Cioè, nel senso che tu devi essere in qualche modo già referenziato, famoso, elitario, a quel punto proprio, sì, ti vieni invitato a partecipare a questo programma, e non è specificato bene se l'invito corrisponde anche ad del denaro, oppure se deve essere una specie di onore che magari, non lo so, ti mettono nelle condizioni di poter esaminare il loro software in maniera più approfondita, cioè non lo so su cosa contano. Veramente, non è tanto chiaro. Mi ha stupito questa cosa che però ad inviti, cioè non è aperto a chiunque, non è aperto a tutti i bug bounty, a bounters, sì, ma è aperto sostanzialmente a chi Apple ritiene meritevole di far parte di questo programma. E l'altro invece è l'approccio Google, che è un approccio molto più capital democratico. Vabbè, un tramaglio, più largo, dai. Sì, la prende molto più alla... cioè pensiero laterale, no? Nel senso, risolvo il problema ma non affrontandolo direttamente. Loro hanno sostanzialmente aperto un programma nella quale progetti open source si possono registrare e ricevono in cambio, a seconda della se sono progetti grandi, piccoli, importanti, meno importanti, secondo Google, dai 5.000 ai 30.000 dollari da investire per mettere in sicurezza i propri software. E in particolare ne vengono citati alcuni che potrebbero essere interessati, e se guardiamo bene sono molta roba che probabilmente Google ha veramente un interesse a mettere in sicurezza, no? Perché sono software che probabilmente utilizza anche lei, tipo ad esempio, che ne so, cioè OpenSSH, le librerie SSL, OpenSSL, il kernel di Linux, Apache, Nginx, jQuery, OpenVPN, tutta roba che farà parte dell'armamentario di Google, no? Cioè l'infrastruttura web di Google, e si baserà un pochino su Nginx e su Apache. Cioè lì il sì. Kernel di Linux è la base di Android, e i server li amministrerà con OpenSSH, no? Certo. Cioè OpenSSL sarà la base di tutti i loro servizi crittografici, magari in maniera, non lo so, con librerie ottimizzate, che ne so. E sì, insomma, servizi non secondari. jQuery è la base di tutto JavaScript praticamente che trovate sull'internet e anche di Google. E quindi era affascinante questo approccio laterale dove tu comunque spendi relativamente pochi soldi, sostanzialmente, finanziando dei progetti perché mettano in sicurezza del software che poi è quello che utilizzi anche te. In questo modo... anche se Google senz'altro aveva un grosso team di sicurezza, però è comunque un'azione quasi preventiva, no? Sì, dice, sì. Dobbiamo lavorare meno noi lavorano di più gli altri. Super paraculo, ovviamente, però. Era un po' affascinante questo strano modo, no? di fare sostanzialmente del mecenatismo. Cioè, sì, no, Google poi... finanzia progetti, quegli altri invitano alla corte. E... Ma poi comunque sia per quello che sembrano, cioè l'entità dei servizi, insomma, sono reward super, super limitati, ecco, per servizi del genere, no? Cioè, sì. Nel senso, non sembrano nemmeno delle cose così accattivanti, dici, commercialmente, sembrano proprio... No, sono abbastanza spiccioli, ma perché... Penso che appunto sia una roba a che loro valutano, perché sì, sì. Nel senso che sembra che distinguano tra se c'è un team piccolo o un team grande. Cioè se c'hai tanti sviluppatori ti pigli 30.000 dollari, se c'hai pochi sviluppatori ti pigli 5.000 dollari. Che nell'arco di un progetto open source che comunque magari non ha solo gente stipendiata a lavorare... Comunque magari sono soldi che fanno tornare un bilancio, certo. Però comunque sono spiccioli, perché non è che mi stai garantendo uno stipendio, cioè non si parla di contratti, non si parla mai di niente di tutto questo. È un po' così, è buttare dei soldi che gli avanzavano, credo, per dei software che probabilmente per lei sono anche molto, molto importanti. Peraltro anche questa cosa che i piccoli progetti open source, quindi non quelli che abbiamo citato prima che magari sono patinati, ma anche quelli piccoli si segnalino a Google, cioè se ci si pensa è anche un modo per Google di venire a conoscenza di qualche tipo di progetto che magari a loro poi gli serve, è utile, certo. Cioè, quindi gli è interessante stimolare, cioè non sono soldi che butta via, non fa niente, fa per calamita. Niente sì. E però fa anche una bella figura, insomma, perché diventa mecenate appunto del mondo. E sono furbi, questi. Ma è 2020. Quelli della Apple sono molto quest'anno è la svolta, si sente. Sì. Si percepisce. Quindi anche noi facciamo un progetto open source per avere 5.000 dollari. Sì, perché noi siamo un piccolo team. Sì, piccolissimo. Sì. Non più di due, dai. 5.000, 2005. Cavolo, lo mettiamo in sicurezza, lo blindiamo. No? Ah, basta, va bene, basta. E niente, mettiamo un po' di musichina e poi attacchiamo con il secondo argomento che decideremo adesso qual è. Non lo sappiamo ancora. eccoci di ritorno dopo un lungo intermezzo per i nostri standard accompagnati da Fela Cuti. Sì, è stato anche un intermezzo tecnico perché chiaramente avevamo dei problemi tecnici perché è iniziato un nuovo anno e non potevano mancare dei problemi tecnici. Bene. E il secondo argomento introduce in realtà il nostro terzo argomento, che sarà il clou della puntata e sarà la continuazione della nostra saga dei brevetti, sì, che forse si conclude anche. Sì, dai, anche basta, sì. Sì, basta, è noioso dopo, sì, un po', basta. No, dai, cioè, un po' va bene, poi sembra che lo spara contro la Croce Rossa. Ok, mi dai una palla al balzo per... Hai visto come inizio a entrare? La medicina come argomento, però prima di la tua che è... La mia introduce la medicina come argomento più della Croce Rossa. Più dell'università, molto più. In Canada è accaduto questo, che è un'azienda, un laboratorio, il Life Labs, sostanzialmente è stato vittima, pare, di un grosso data breach che ha esposto i dati di un sacco di canadesi, ma tanti, tipo 15 milioni di canadesi. E quindi loro sostanzialmente non hanno detto niente a nessuno all'inizio, ma pare abbiano pagato sostanzialmente per riavere questi dati. Ora non è molto chiaro perché nell'articolo si parla sostanzialmente di riavere i dati. Riavere i dati presuppone come se glieli avessero rubati, tipo come un ransomware, no? Cioè li abbiano cifrati e poi chiesto dateci i soldi per decifrarli. Però questo sembra presupporre il fatto che loro non avessero un backup, cioè nel senso che se loro potevano ripristinare i dati, che problema c'era? Forse il problema è che gliel'hanno anche rubati, e quindi dicevo, se poi anche noi possiamo ripristinare i dati ma questi li fanno girare su tutto l'internet, ci facciamo comunque una figura di merda. Comunque la cosa interessante è che comunque questa cosa ha funzionato, loro hanno dovuto pagare e a rischio erano sostanzialmente ma parecchi dati che non contenevano soltanto tipo nome, indirizzo, queste cose qua, ma anche i risultati dei test, che è molto brutta come cosa sostanzialmente. Sì. Quindi cioè, loro sostanzialmente hanno pagato, ma perché erano completamente a rischio di chiusura, e anche così non si sono fatti una bella figura, diciamo. E quindi niente, questo era per della musica di merda. Stavolta sì, già abbiamo della musica bella, la mettiamo spesso, sembra che cambia proprio il format. Non ne abusiamo, comunque il 2020 è ancora lungo. Abbiamo solo Fela Cuti quest'anno, quindi dobbiamo usarlo con parsimonia. Con parsimonia, esatto. Parsimonia che manca completamente a... No, scherzo. Parliamo quindi del brevetto e comunque sia dell'industria farmaceutica e medica. E diciamo che ora quanto insomma siano sbagliati come meccanismo e come motore del monopolio, insomma, oggi insomma parliamo nello specifico di quelli farmaceutici perché sono forse perché rappresenta il farmaceutico forse quell'ambito che è più infame al progresso tecnologico delle telecomunicazioni, nell'elettronica, dove comunque sia, nonostante di frivolezza, comunque sia di innovazione, quindi qualcosa che di necessità costruita, ecco, nel farmaceutico e nel medico invece ci ritroviamo di fronte a delle soluzioni infame da monopolizzare, incasso anno mondiale in termini assoluti. Questo ora non è semplicemente una statistica così che do a, diciamo, casualmente, ma è legata appunto è proporzionale alla quantità di brevetti che vengono fatti, l'incasso che viene, proprio perché è un monopolio, quindi una monodistribuzione insomma dei profitti di certe robe. Il farmaceutico in particolare, dovendo giocare sulle necessità, ha dovuto magari come dire, inscatolare delle soluzioni semplici, anche piuttosto datate, cioè anche del secolo scorso, e in maniera, insisto, piuttosto infame, però che con lungimiranza, cioè nel senso rinnovando brevetti di continuo a ogni scadenza con meccanismi molto molto ambigui. Il primo di questi è molto simile a quello che di cui si sentiva parlare qualche anno fa sulle smart drugs, che si chiama evergreening, cioè che è un meccanismo nel quale praticamente la qualsiasi cosa inventata a livello biochimico viene modificata in maniera Monsanto, la Bayer, cioè sono super soliti usare queste strategie. Cioè cambia una virgola, registri il brevetto. Sì, no, cambia una virgola, registri il brevetto. Esatto. È come i Pantoni. Fondamentalmente sì, tra l'altro infatti una cosa che nonostante... Nella primissima puntata avevo detto che cioè ci sono dei requisiti per il brevetto, comunque sia di innovazione, originalità, utilità. Non è vero niente. No, formalmente vengono mantenuti, però nonostante trovano queste squadre di avvocati efficientissimi, riescono a navigare, insomma, a destreggiarsi in mezzo alle definizioni, alle nomenclature e a ottenere quello che vogliono. Quindi la stessa cosa vestita di rosso diventa una cosa nuova, perché prima era vestita di blu, anche se il principio magari chimico che sta alla base è lo stesso. E diciamo che quindi questa cosa qua si chiama evergreening. L'altro approccio che è veramente, è molto particolare secondo me invece è quello del thickening, cioè dell'ispessimento. Questo meccanismo invece è basato sul fatto che una volta brevettata insomma la ricerca di interesse e magari di successo, il brevettatore inizia a fondamentalmente a brevettare tantissime cose, anche illogiche, però che gravitano intorno a quel tema scientifico. Cioè, ad esempio, io ho una certa reazione che brevetto, ora sto dicendo delle castronerie, mi scusino i chimici, vado a fondamentalmente brevettare tutta una serie di operazioni che hanno solo la struttura simile, come se io brevettassi un'operazione in Python, non lo so, è una cosa abbastanza assurda, comprese quelle impossibili, perché voglio che nessun altro si possa approcciare. Si possa avvicinarsi. Esatto. E uno può dire, sì, però comunque sia, se è impossibile non può essere brevettabile. È vero, ma queste maledette squadre di avvocati sono abbastanza furbe da scrivere praticamente le domande di brevetto in maniera talmente prolissa, talmente lunga, da rendere l'analisi di queste domande lunghissime. Questa cosa è una cosa che tutt'oggi sta succedendo. Ah, quindi dici, chi le deve analizzare si rompe le palle e dice vabbè, dai, vaffanculo. Sì, perché tra l'altro hanno provato un po' a limitare, diciamo, il sistema dei brevetti negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti, ad esempio, con dei sistemi di controllo incrociato in cui diversi brevettatori si controllano tra di loro. Però sa di fatto che le compagnie più scafate scrivono queste robe incomprensibili, lunghissime, che diventano inattaccabili in un certo senso da una piccola azienda che magari ha dei limiti, o un piccolo gruppo di ricercatori, o comunque sia entità più piccole. E questo, per capirsi, ha fatto sì che medicinali di uso super comune, come antinfiammatori oppure l'insulina per i diabetici, che hanno comunque sia a livello scientifico non è che sono esageratamente complicati, sono stati rivoluzionari, però erano abbastanza semplici, sono stati brevettati ininterrottamente più o meno dagli anni 20. Questo ora ha la conseguenza nella vita di tutti, che ovviamente il brevetto vuole che il medicinale esca con il nome del brand tal dei tali, e che quindi sia, almeno negli Stati Uniti è tipo 2-3 volte superiore al generico, e da noi è più o meno 1,8-2 volte superiore al generico. Quindi sa di fatto che in posti dove magari oltretutto l'assistenza sanitaria è piuttosto dispendiosa, è un fattore escludente, ecco, questo. E su appunto malattie e patologie anche piuttosto comune, come quelle dell'insulina o tipo gli antinfiammatori, e restano in particolare questo Umira, che è un antinfiammatorio, e quello dell'insulina, i due farmaci più venduti, più profittevoli della storia, e non necessariamente i più complessi e più complicati. Ecco. Oh. Oh yeah. Cita qualche esempio buono? Ma dai, aspetta, mettiamo un pezzo e poi si conclude con quegli esempi, quelli buoni. Quelli lodevoli. Vai. Il nostro discorso sui brevetti medici. Sì, no, dai, in senso, sì, dai, sui brevetti in generale, sul settore farmaceutico, e, con due dai, notizie relativamente positive, poi notizie, informazioni, ecco. Allora, nel ricercare un po', insomma, ecco, brevetti e Big Pharma, diciamo, in questi giorni mi sono rimbattuto sul caso di Salk, dottor Salk, che fu un medico che l'anno di precedente non mi ricordo, però insomma, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, alla fine degli anni 40, brevettò scoprì, trovò una cura per la poliomielite, che in quel periodo era percepita come una peste nera. L'altro è bellissimo che ho trovato molti più articoli sulla percezione della poliomielite, cioè che era considerata proprio come una roba che fosse inevitabile che chiunque avesse. Però invece la cosa più singolare fu proprio che questo dottore espressamente in un'intervista piuttosto famosa disse che non si può brevettare il sole. Senti, ma retorici americani, sì, e dicendo che quella cura apparteneva alla gente e non a un'industria, ecco, proprio perché andava a ad attaccare, ecco, un malessere che era in quel periodo molto pressante anche in Occidente, soprattutto anche con i vettori della Seconda Guerra Mondiale, eccetera eccetera. Quindi era una brava persona lui. Ma che fine ha fatto? Allora, rileggendolo, l'hanno ucciso? No, rileggendolo per bene, poi come al solito, come tutti gli americani, a un certo punto si montano la testa ed esagera, tipo, perché è vero che questo tipo non brevettò le sue cure per la poliomielite, però pochi anni dopo iniziò a studiare l'HIV negli anni 60, quindi quando ancora non era un problema, e provò subito a brevettarla, forse perché si è reso conto che avrebbe potuto farci un sacco fregato, di soldi. Esatto. Fregato una volta, esatto, detto, la seconda volta faccio il filosofo, ecco, sì. Questo sì. E un altro dato particolare di questo di questa roba sulla polio, che fu il più, è stato il più grande test, è stato il test, diciamo, medico più grande fatto su larga scala, cioè nel senso vennero considerati, tipo, essendo un problema molto pressante in quel periodo, quasi tutti i malati diventarono proprio test di questa nuova medicina che lui aveva un po' inventato, ma si parla di 50.000 persone, insomma, una roba immensa, proprio immensa. Quanti ne ha seccati? Ne ha seccati solo 11. Ah, è stato, guarda, è stato quasi gentile. Poi io non li conosco, vabbè, quindi ok, passiamo oltre, forse stiamo sbagliando. E, detto questo, invece, no, vabbè, dai, direi che più o meno io... con lo straparlare di medicina, ho dato, ci sono. Ma vogliamo fare l'incipit, cioè la chiosa, la chiosa con quella con il brevetto, quello strano? Bah, quello discusso all'inizio, una cosa di cui non sappiamo tantissimo, che in realtà deriva da una mia lettura della settimana scorsa, sì, della sì, quale sì, ero a non fare farlo. Niente, perché io conduco occasionalmente durante l'anno la vita del nonno pensionato, cioè ci sono periodi dell'anno in cui non ho niente da fare, mi alzo al mattino, vado a fare colazione al bar, leggo il giornale, poi esco dal bar, entro nella biblioteca, mi siedo insieme agli altri nonni a leggere altre riviste, altri giornali, e mi è capitato per le mani le scienze. No, però scusa un attimo, ma sì, vieni percepito come nonno? Cioè gli altri nonni ti riconoscono e... O è proprio... non mi scacciano, quindi okay, comunque, allora vuol dire, non essendo cacciato, sì, allora non essendo cacciato mi sento parte del gruppo, okay, comunque. Ok. Non è che gli altri sono socievoli, stanno tutti seduti solo al tavolino a leggere. Infatti, sarebbe stato una spellubero per un altro motivo, sempre cercando di avere per conduzione a temperatura ambiente, che sarebbe la svolta, ma non pare sia prossima, o almeno così sembra. E però il pedo piccolo, innocuo, buttato lì a caso, che parlava di sostanzialmente un personaggio, un tale dottor Pais, non so come si legge in americano, non so come si possa leggere. Tu che sei anglofono, stato in foto, l'abbia brevettato questo, ma appunto abbia brevettato anche un superconduttore che secondo lui si avvicina alla temperatura ambiente. In realtà abbiamo guardato su Wikipedia, si parlava comunque di meno 70 gradi Celsius, che non è proprio ambiente, non è neanche così freddo. Ma io... Poi bisogna vedere quanto... Che scarpe c'hai? Esatto, la sciarpa, queste cose qui. E poi anche altre cose, tra cui anche tipo un veicolo a riduzione di massa, che non ho molto bello, comunque un sacco di brevetti buffi. Sì, cose assurde, di temi molto, diciamo, caldi, un po' sì, risentiti quella. Tanto che si presuppone, cioè le ipotesi di questo commentatore della rivista erano due essenzialmente. Uno, che la Marina americana fossero dei burloni, cioè che loro ogni tanto brevettassero a nome di uno delle cazzate clamorose, così, per fare uno scherzo, tipo il pesce d'aprile, delle cose, però non era aprile e quindi è strano. L'altra è come avevano fatto ai tempi della Guerra Fredda, cose che in mente sono veri, ma che in realtà ti portano su piste sbagliate, sì, poi essenzialmente per sviare la concorrenza. cioè per fare in modo che uno perda tempo a leggere, a capire quella cosa, dirà ma se allora l'hanno fatto così allora magari si può fare, la provino su piste che sono in realtà sostanzialmente delle sì, sì, come, poi, come si chiamano delle anche semplicemente il le tane del coniglio, no, come rabbit hole, quello lì quello il termine corretto, quelle sì si usa nell'ambito lo si sai usa. Tra voi vecchi magari sì, tra noi vecchi senz'altro. E quindi niente, ed era buffo questa roba qua. Comunque se la cercate su internet, questo dottor Pais, mi sembra, della Marina Americana, sì, ce l'abbiamo qua davanti, abbiamo praticamente il nome Salvatore Cesar Pais. Quindi sì, Salvatore Cesar non è, quindi lo leggiamo come va letto. Sì, sì, sì, sì. E potete trovare delle informazioni su di lui, sul suo dottorato, sì, e poi un sacco sulle di cose che a caso che e quindi niente, esiste un personaggio, se esiste, folle o boh, non lo so. È comunque sponsorizzato dalla NASA e non lo so, è strano, cioè perché poi sono quelle notizie che sembrano fatte apposta per sostanzialmente dare mangime al complottismo. Cioè questa è la classica notizia complottista, no? Ma, dai. Sì, esageratamente, sì sì. Anche proprio con gli occhi da succedere alla fine del Novecento, cioè era, cioè non si capisce mai appunto il livello di verità, però ti mandi la palla in tribuna e confondi tutti, quindi potrebbe oggettivamente anche essere una di quelle robe là, sulla tecnologia, ecco. Boh, così dicono. Cioè, nel senso che sicuramente è più affascinante pensarlo, quindi noi di lunedì sera lo vogliamo pensare. Cioè. Noi sì, noi sì, spingiamo sì, per sì, la sì. tesi, quella super complotto, quella super complottista. In verità è Trump nel garage che fa le cose, è un genio di nascosto, cioè, proprio tutte le crediamo noi. Comunque lui sostanzialmente gli si ponevano spesso le questioni di brevetto, no? Di fattibilità, eccetera. Di solito comunque i suoi progetti passavano come brevetti appunto perché spinti dalla marina militare, cioè se era un povero cretino a caso che provava a brevettare la stessa cosa probabilmente dicevano sei scemo, capito? Invece con questa cosa che comunque lì dietro c'aveva una grossa istituzione, cioè tendenzialmente no, il brevetto passa, sì, anche sì. Perché se appunto come tendiamo a spingere noi la tesi complottista è un motivo di sicurezza nazionale che passi, non è che arriviamo all'ufficio brevetto ci rovina il gioco. Ce lo fa e basta. Sì, sì, assolutamente. Vabbè, e quindi con questa cosa buffa sui brevetti chiudiamo la puntata. Plasma direi. Compression Fusion Device. Questo che è l'ultimo brevetto. Questa è forte. Cioè, fortissimo. Anche il disegno comunque è veramente una roba. Cioè, sì, sì, se è proprio casuale. Il disegno, cioè questa croce, capito, che riecheggia un pochino probabilmente le massoni. Ma non saprei. No, cioè questa però questa croce con questo pallino nel mezzo, capito, che sembra quasi un occhio. Cioè è affascinante, guardatevela perché aspetta, penso che possiamo concludere dicendo che appunto il vero complottismo sta negli occhi di chi lo guarda. Quindi perfetto. Okay. Lunedì prossimo parleremo di prossimo, sì, vai. Giardinaggio.